Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Allora, tema preannunciato da due giorni, rinviato ieri, oggi riusciamo ad occuparci della nuova versione della social card, la nuova carta acquisti. Molti, lo ricorderete, sono stati un po' delusi dalla prima versione, per qualcuno si era trattato addirittura di una beffa, per qualcuno invece una reale, anche se piccola, boccata d'ossigeno per il proprio bilancio familiare. Con il decreto mille proroghe dovrebbe arrivare la nuova social card, la nuova carta acquisti destinata alla popolazione meno abbiente. Rispetto alla versione precedente, la nuova carta dovrebbe essere intanto sperimentata per un anno in 10 città. Dovrebbe essere distribuita ai beneficiari attraverso enti non profit che operano nelle attività di contrasto alla povertà alimentare. Al momento si conoscono però pochi dettagli. L'identikit dovrebbe essere questo, ma la nuova social card versione 2011 dovrebbe essere delineata da un decreto del Ministero del Lavoro, a cui il appunto provvedimento mille proroghe ha affidato l'attuazione dell'intervento. Anche se in tutto questo, appunto, perché stiamo parlando al condizionale, dobbiamo ricordare che ieri sera il Presidente della Repubblica ha fermato il provvedimento esprimendo una serie di osservazioni, di perplessità, sostenendo che la misura, il provvedimento mille proroghe, appunto, include misure troppo eterogenee e quindi è possibile che qualche provvedimento venga stralciato da quello generale con un maxi emendamento, tra cui per esempio la riforma della tassazione sui fondi comuni di investimento, di cui peraltro abbiamo già parlato venerdì scorso. Comunque, il decreto scade domenica, dovrà essere trovata nelle prossime ore una via d'uscita, però insomma non abbiamo trovato fra le misure a rischio esclusione quella che contempla l'introduzione della nuova carta acquisti, della quale oggi parliamo con la nostra collega del Sole 24 Ore, mi veniva a dire di Radio 24, Valentina Melis, il Sole 24 Ore per l'appunto, ciao, perché appunto una ex collega, ciao, della radio, ben tornata a Salva Danaio. E poi ringrazio di essere ritornato ospite della nostra trasmissione Paolo Conti, direttore generale del CAF ACLI, il centro di assistenza fiscale delle ACLI per lavoratori dipendenti e pensionati. Peraltro proprio le ACLI hanno presentato ieri la loro proposta di social card al ministro Sacconi, una carta acquisti potenziata nell'importo e soprattutto estesa ad un numero maggiore di nuclei familiari. Dottor Conti, buongiorno e grazie. Grazie. Allora, il numero verde per intervenire è sempre lo stesso, è l'800240024. Avete anche l'opportunità di scriverci o al 349-238-6666, dei brevi messaggi. Se volete scrivercene invece qualcuno un po' più articolato, l'indirizzo è salvadanaio@radio24.it. Borse oggi contrastate, come vi dicevo, si guarda ancora alla situazione libica, sempre più preoccupante, anche se oggi l'effetto è particolarmente concentrato ancora sul prezzo del petrolio, $106 il barile il Brent a Londra, 95 qualcosa il WTI, il greggio di riferimento americano, dopo essere volato ieri sul mercato appunto di Wall Street. Il mercato valutario anche oggi è in fibrillazione, con l'euro che sul dollaro si è proiettato oltre la soglia di 1,37, perché come vi anticipavo nel giornale radio, qualche esponente della Banca Centrale Europea comincia a chiedere con un po' più di insistenza rispetto ai mesi passati un intervento sui tassi di interesse per frenare anche l'inflazione, che sta cominciando a sorpassare la soglia del 2% nell'eurozona. Milano guadagna lo 0,47%, sembrano ormai completamente superati i disagi tecnici che hanno provocato ieri l'interruzione delle contrattazioni dalle 9 del mattino, quindi la borsa ieri, lo ricorderete, non ha mai aperto, e la ripresa invece regolare delle contrattazioni solo alle 15.30, questo tema abbiamo dedicato proprio in emergenza alla puntata di ieri di Salva Danaio. Oggi Milano rimbalza, tenta un recupero dello scivolone degli ultimi giorni proprio provocato dalla crisi libica. I titoli che stanno salendo di più: comparto assicurativo e bancario, Fondiaria più 2,40, Intesa più 2,29, Ubibanca più 2,10, Banco Popolare più 1,92, Unicredit più 1,74%, chissà cosa ne farà della quota del 7,5% dei libici nel capitale, Mediolanum più 1,18, Monte dei Paschi più 1,10. In discesa invece stamani abbiamo Saipem meno 3,34%, Tenaris meno 2,87%, Pirelli meno 1,78%, meno 1,7% anche per STM, Fiat Industrial meno 1,26% per Finmeccanica. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi, sentiamo quali saranno le caratteristiche della nuova social card per le famiglie meno abbienti. Torna torna nel 2011 la Social Card. La carta acquisti che nel 2008 era stata destinata dal governo italiano alle fasce di popolazione più bisognose potrebbe tornare nelle tasche degli italiani attraverso il decreto mille proroghe. La carta, infatti, sarà nuovamente introdotta per un periodo di prova che sarà gestito da alcuni enti caritativi nei comuni con più di 250.000 abitanti. L'obiettivo della sperimentazione è quello di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga. La fase sperimentale potrà avvalersi di un fondo pari a 50 milioni di euro e avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti selezionati. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sarà un decreto a stabilire le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti, che fungeranno da intermediari, si impegnano a rilasciare le carte. Il nuovo strumento si affiancherà dunque alla vecchia Social Card, caricata dallo Stato con 40 euro al mese per la spesa alimentare e per pagare le bollette e distribuita a una platea di 734.000 persone, tra anziani e famiglie con bambini sotto i 3 anni, in possesso di determinati requisiti. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666 o all'indirizzo della nostra posta elettronica salvadanaio@radio24.it. E allora ribadiamo ancora una volta, dobbiamo fare una conversazione quasi esclusivamente al condizionale questa mattina, però Valentina Meli, se stiamo leggendo, oltre ai pezzi del nostro collega Marco Mobili appunto sul Sole 24 Ore, anche quelli degli altri quotidiani, la carta acquisti non è contemplata né tra le grandi possibili esclusioni del decreto mille proroghe né tra le conferme, quindi teoricamente insomma una sorta di conferma del provvedimento dovrebbe esserci. Ma sì, se non attraverso il mille proroghe comunque vengano recuperate insomma le norme recuperabili di questo provvedimento, è presumibile che con un altro provvedimento l'estensione della carta acquisti o il nuovo programma carta acquisti possa essere introdotto. Innanzitutto perché ci sono i soldi, i fondi ci sono, infatti, perché del miliardo di euro che era stato stanziato nel 2008 per la vecchia carta acquisti, chiamiamola così tra virgolette, ne sono stati spesi 500 milioni. La sperimentazione introdotta ora implica una spesa di 50 milioni, ne avanzano 450 milioni, quindi i fondi ci sono. Inoltre nel 2009 già il governo aveva prefigurato l'ipotesi di un ampliamento, quindi la volontà di estendere la carta acquisti ad un numero maggiore di beneficiari già era stata espressa, anche perché la vostra scheda giustamente parlava di 734.000 beneficiari, che sono le persone che hanno avuto accesso al programma fino al 31/12/2010. Adesso sono già 750.000, però c'è da precisare che in questo numero ci sono anche i beneficiari, questo è il numero complessivo dei soggetti che hanno avuto accesso alla carta acquisti. Alla carta, ma ci che sono sia stata bambini realmente alimentata e... Sì, e questo è un primo punto. Il secondo punto è che nel frattempo alcuni di questi beneficiari, diciamo, hanno perso i requisiti, quindi i bambini che hanno compiuto 3 anni entrano nel numero di quei 750.000, ma probabilmente ora non c'è più una carta a loro legata. Quindi andrebbe rifotografata, diciamo, la situazione. Ma... Sì, e le carte in circolazione sono meno di quelle 750.000, sicché i termini, come dire, i margini per ampliare il programma ci sono tutti, ecco. Allora, tra l'altro, ieri, in concomitanza con la discussione sul decreto mille proroghe, e l'ACLI, come vi dicevo prima, le ACLI hanno presentato la loro proposta di social card al ministro Sacconi, che ha detto sì, è tutto molto interessante, ma ci sono, lo leggo testualmente anche da quanto riporta Davide Colombo sul Sole 24 Ore, il ministro del lavoro avrebbe detto, ci sono troppe variabili non dipendenti da noi che non consentono ipotesi di spese aggiuntive strutturali, come a dire, insomma, sì, molto bella questa idea, ci piacerebbe tanto ampliare sia la platea dei destinatari anche l'importo, ma al momento forse non c'è trippa per gatti. Paolo Conti, direttore generale del CAF ACLI, tra l'altro dottor Conti, poco politico, molto operativo, molto concreto, sempre anche nel suo lavoro quotidiano, però insomma magari ci racconta un po' quali dovrebbero essere le caratteristiche della vostra proposta e se secondo lei ci sono anche i margini per fare in modo che un po' le strade si incontrino, no? Fra la nuova social card e le proposte vostre. Certo, guardi, come ha detto giustamente la signora Melis prima, 734.000 beneficiari sono i soggetti che hanno usufruito nel corso di questi tre anni della carta. In realtà però sono molti meno quelli che hanno attualmente le carte attive, perché appunto i bambini sopra i tre anni e vengono poi tolti dal programma, così come i soggetti deceduti che rimangono nell'ambito del numero complessivo dei beneficiari, ma che poi non hanno e non spendono più nulla. Infatti, tenendo conto che la carta è partita nell'ottobre del 2008 fino al dicembre 2010, la spesa complessiva di 475 milioni di euro equivale grosso modo a ricariche su circa 450-460 mila soggetti attivi. Questo è il numero delle carte effettivamente attive oggi, poco meno di 500.000. Carte dove vengono ricaricate appunto 40 euro al mese. Per cui, tenendo conto che il programma partiva con 808 milioni di euro, a cui poi si sono aggiunte le multe dell'antitrust e altri 100 milioni di euro di dividendi di Eni Enel dell'anno successivo, per cui siamo a oltre 1 milione di euro come stanziamento, per cui in 2 anni e mezzo grosso modo ne sono stati spesi la metà. Se è vero che questo doveva essere un intervento per far fronte a una crisi e dunque un intervento che non doveva essere, almeno nelle prime ipotesi, un intervento strutturale, ma un intervento spot che risolveva determinate situazioni nell'immediatezza, probabilmente ecco, lo stanziamento oggi è stato fatto su una platea molto più vasta, che poi invece non è stata quella del 1.300.000 persone che si pensava di andare a intercettare. E questo insomma è tutto il presupposto che vi ha portato a proporre la vostra carta acquisti. Perché a tutti gli effetti con una carta acquisti fondamentalmente noi cosa proponiamo? Proponiamo prima di tutto un regime di povertà che sia non funzione dell'età delle persone, cioè a tutti gli effetti oggi noi abbiamo questa grande discriminante che fa sì che i nuclei familiari dove non ci sia un soggetto ultra 65enne o un bambino al di sotto dei 3 anni, ma che si trovino in condizioni di povertà pressoché assoluta, perché i limiti di reddito per i quali viene erogata la carta sono limiti di povertà assoluta oggi, non vengono contemplati in questo programma, per cui rimangono escluse parecchie centinaia di migliaia di famiglie che invece potrebbero essere ricomprese tranquillamente all'interno di questo. E poi le chiedo un attimo di pazienza, Conti, tutto il resto lo diciamo dopo. Peraltro lei ha fatto il riferimento alla questione dell'età delle persone e anche al fatto appunto che l'opportunità di avere la carta acquisti vecchio formato sia legato ovviamente ad una soglia di reddito estremamente basso. Allora questo ci porta, perché molti ascoltatori ce lo chiedono, la necessità di ribadire quali sono le condizioni per poter far richiesta della carta attualmente in vigore. 800 24 00 24, questo è il punto dal quale partiremo nella seconda parte della nostra trasmissione tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi a Salvadanaio ritorniamo su un tema intorno al quale dicevamo adesso giustamente, proprio a microfoni spenti, con la collega del Sole 24 Ore Valentina Melis. Si è fatto un gran parlare quando appunto la prima formulazione della carta acquisti fu lanciata 2008-2009, quindi quando è diventata operativa, e di conseguenza andavano comunicati tutti i parametri a tutti i possibili aventi diritto. Nel 2010 la carta è continuata ad andare avanti, perché chi ne aveva diritto poteva continuare a richiederla, chi ne aveva diritto l'aveva già attivata, continuava ad averla alimentata e quindi ad utilizzarla, però insomma poca comunicazione, Valentina, intorno a questo strumento. Dicevamo, poca campagna elettorale l'anno scorso, quindi forse non c'è stato bisogno di far sapere che questo strumento di sostegno al reddito, soprattutto per le famiglie molto povere e molto in difficoltà, c'è. Di fatto adesso probabilmente se ne dovrà ricominciare a parlare, perché il decreto mille proroghe, se passerà nella formulazione, comunque anche con le modifiche che ha chiesto il presidente Napolitano, prevede una nuova social card versione 2011 che amplia possibilmente la platea dei destinatari, e vedremo appunto quale sarà la formulazione. Detto questo, proprio in virtù del fatto che nel 2010 se ne è fatto un parlare molto ridotto, allora probabilmente a molti aventi diritto è sfuggita questa opportunità, e quindi ci sono molti ascoltatori che ci chiedono: ma allora qual è il reddito minimo per poterla richiedere e come si fa? Olindo da Teramo, buongiorno. Buongiorno e grazie. Parlavo proprio di lei, buongiorno. La ringrazio. Io parlo per i miei genitori, due persone molto anziane, sì, ormai novantenni. L'altra volta non abbiamo avuto nulla proprio perché i miei genitori non hanno saputo districarsi nel meandro delle cose che bisogna fare. Io non ho capito, anzi vorrei sapere esattamente a chi bisogna rivolgersi, a chi bisogna fare domanda, mm-hmm, eventualmente, e qual è il reddito minimo, perché i miei genitori, sommando i loro due redditi, hanno 1000 euro al mese. Non so se 1000 euro al mese è considerato la soglia possibile d'accesso. Ecco, tutto qua, le mie domandine molto... No, ma è molto molto utile la sua domanda, Olindo, anzi la ringrazio, un gran bacio ai suoi genitori perché ci permette di rifare un po' il punto della situazione. Allora, Valentina, mi puoi aiutare tu sui parametri della vecchia carta intanto? Sì, la vecchia carta in pratica può essere chiesta da cittadini di età pari o superiore a 65 anni, mi sembra il caso del nostro ascoltatore, che dovranno avere i seguenti requisiti: dovranno essere incapienti o cittadini con reddito pari a zero, non godere di trattamenti pensionistici in ogni caso diciamo superiori a 6.235 euro l'anno se di età pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 70, o avere una pensione non superiore a 8.313 euro se di età superiore a 70 anni. C'è da considerare questo, che non conta solo il reddito, come diceva il nostro ascoltatore, ma bisogna farsi calcolare l'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente. Qui ci può aiutare sicuramente Paolo il dottor Conti, sì, delle ACLI, perché bisogna farselo calcolare questo ISEE annualmente, ed è un parametro che tiene conto, oltre che del reddito, del numero dei componenti del nucleo familiare e anche dei beni mobiliari, di una serie di altri elementi oltre al semplice reddito. Questo va fatto ogni anno perché appunto per la carta acquisti è necessario farsi calcolare questo ISEE. Adesso, una volta verificato che i genitori di Olindo abbiano o meno i requisiti, quindi le caratteristiche per poterla richiedere, poi dottor Conti, magari se vuole commentiamo anche questo caso per verificare così se a spanne potranno ottenerla o meno. Dove devono andare? Alla posta, se non mi ricordo male, funzionava così nella vecchia formulazione, quindi l'ufficio postale, che comunque tutti abbiamo a portata di mano, ci può dare una mano almeno nel rilasciarci un po' di documentazione. Sì, è cambiato leggermente durante il 2010 il processo rispetto a quello che avevamo nel 2008 e nel 2009, anche per andare incontro a quelle che erano state le difficoltà. E comunque, prima di tutto appunto, è importante che questa persona non tenga conto solo del reddito e dunque della capacità di spesa dei propri genitori, ma deve farsi calcolare anche il certificato ISEE. Sì. Una volta che l'ISEE è al di sotto dei parametri che ha detto Valentina Meris prima, cioè 6.235 euro per le persone sotto i 70 anni, 8.313 per quelle sopra, basta recarsi col certificato ISEE presso un qualsiasi ufficio postale, dove si compila una domanda e l'addetto dell'ufficio postale compila la domanda insieme al pensionato. A quel punto le poste non rilasciano più la carta acquisti, come invece accadeva nel precedente circostanza, che aveva generato anche qualche problema che poi ricordiamo, riesumeremo. Esatto, perché non erano ancora cariche e così via. In questo caso le poste producono un flusso telematico che mandano direttamente all'INPS. L'INPS fa la verifica che i dati contenuti all'interno di questa domanda corrispondano al vero, e di conseguenza che queste persone abbiano pensioni che stanno al di sotto dei limiti. A quel punto l'INPS manda un nuovo tracciato informatico alle poste, dandogli l'ok o meno alla ricarica e alla generazione della carta. A questo punto l'ufficio postale informa obbligatoriamente la persona che ha fatto domanda, sia per l'esito positivo che per l'esito negativo della domanda stessa. Per cui, nel caso in cui sia stata accolta la domanda da parte dell'INPS, arriva al pensionato una lettera a casa dove lo si invita a recarsi presso l'ufficio postale dove ha fatto la domanda per ritirare la carta già carica. Quindi la si ritira sempre alla posta, ma solo che dopo l'INPS ha già certificato la sussistenza dei requisiti necessari. Mentre prima invece il dramma era che si ritirava la posta e poi dopo si andava a fare la spesa e 40 euro non c'erano. Esatto, perché veniva attivato successivamente. Oh, ok, allora è questo un punto, e quindi insomma la prima cosa che possiamo dire ad Olindo è di andare a fare una verifica dell'ISEE. presso un CAF può farlo tranquillamente. Qualsiasi ufficio CAF che trova nel suo comune. Allora, andiamo ad Hildegard da Verona. Sì, perché praticamente adesso qua con lei potremmo fare delle valutazioni su questa fase di passaggio dalla vecchia card alla nuova carta acquisti. Hildegard, buongiorno. Buongiorno. Ho pronunciato correttamente il suo nome? Sì, grazie. Ci dica. Io volevo sentire se non ho capito bene. Questa carta acquisti adesso vale ancora o si può prendere ancora qualcosa? Lei la sta già usando, Hildegard? Sì, lo stavo già usando. Sì, sì, guardi, non cambia niente per chi la sta già utilizzando. Evidentemente lei ha i requisiti, tutt'al più appunto nella nuova formulazione verranno un po' allargati i parametri, si estenderà la platea delle persone che potranno utilizzarla e potranno richieste, per cui dovremmo andare incontro ad una situazione un po' più favorevole appunto per chi era rimasto fuori dalla prima partita. Tema che peraltro viene anche abbondantemente sollevato questa mattina da un lungo articolo dell'economista Tito Boeri sul Sole 24 Ore e che sofferma la sua attenzione, oltre sul fatto che la crisi economica ha appunto allargato la platea dei poveri, delle persone in difficoltà finanziarie, speriamo temporanee, speriamo che il mercato del lavoro riprenda, perché quella è la condizione fondamentale per ridare serenità a tutti. La questione, Valentina, che Tito Boeri solleva quest'oggi è la modalità di distribuzione delle future carte, se dovesse passare appunto tutta la ipotesi che è allo studio in questo momento, perché non ci sarà teoricamente più la modalità che abbiamo spiegato adesso con Paolo Conti, quindi il ritiro alla posta dopo che l'INPS ha verificato la sussistenza dei requisiti. Di questa distribuzione successivamente, di questa distribuzione un domani se ne dovrebbero occupare enti no profit. Chi saranno? Questa fase sperimentale in 10 città, come funzionerà? Allora, la formulazione è ancora peggiore, tra virgolette, perché la norma del milleproroghe a cui facevamo riferimento non dice neanche enti non profit, dice enti caritativi, che è una nozione che giuridicamente non esiste. Cioè il non profit ha dei malumori perché dice saranno associazioni, saranno organizzazioni di volontariato. Quali saranno gli enti? Giuridicamente non si capisce. Saranno le mense dei poveri piuttosto che l'oratorio della parrocchia, perché qua veramente tutto ci può entrare dentro. Esatto, è una definizione molto ampia. Il Ministero del Lavoro, quando abbiamo chiesto chiarimenti, ci ha spiegato che questa definizione non vuole escludere nessuno, che vuole essere una definizione inclusiva, ma da quello che hanno scritto nella norma sembra proprio che si tratterà di strutture che gestiscono, diciamo, servizi per far fronte alla povertà alimentare, quindi di fatto mense. E questo ha creato alcuni malumori all'interno del non profit, perché sembra un pochino discriminatorio, cioè molti dicono noi, come l'Auser ad esempio, facciamo servizi agli anziani su tutto il territorio nazionale, ma non siamo un ente caritativo e non gestiamo come la Caritas per esempio delle mense di grosse dimensioni, perché poi la norma fa riferimento anche al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture di questi enti. Prima di vedere le carte, intanto ci sarà tutto il processo di accreditamento degli enti, che sarà immagino anche lungo e complesso. E quindi sarà un accreditamento nazionale, così ci hanno spiegato, e un accreditamento comunale per i più piccoli enti, e poi saranno questi enti a valutare la situazione di bisogno delle persone e ad attribuire a loro la carta. Anche questo può dare adito a dei dubbi, cioè sono enti del privato sociale che di fatto attribuiscono fondi statali in base ad una valutazione del bisogno delle persone. Ora, è chiaro che questi enti possono essere, come dire, i più affidabili, però è una bella scommessa che lo Stato fa affidando, come dire, un servizio proprio attraverso l'intermediazione del privato sociale, quindi di enti non profit di fatto. Altro problema che potrebbe sorgere una volta individuati gli enti caritatevoli che hanno a loro volta i requisiti per distribuire queste carte è come gli enti caritatevoli individueranno sul territorio le famiglie bisognose. Altro problema che affrontiamo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Ancora 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Ci sono alcuni ascoltatori che ci chiedono appunto se per esempio i disabili hanno il diritto di fare la richiesta della social card attualmente in vigore. Adesso vi rispondiamo. Io saluto invece il simpatico Giorgio che dice: la Juventus ha bisogno della social card. Giorgio, non infierisca sul mio tifo calcistico, la prego, a tra poco. Allora, da che cosa ricominciamo? Ricominciamo per esempio, tra l'altro, Paolo Conti, direttore generale del CAF ACLI, visto che lei nella prima parte della trasmissione aveva soffermato la sua attenzione sul regime di povertà in cui devono navigare le persone che teoricamente hanno diritto alla social card, che è un regime di povertà assoluto, perché insomma vivere con poco più di 6.000 euro l'anno, voglio vedere chi ce la fa. La nuova social card potrebbe innalzare lo dicevamo a microfoni spenti con Valentina Melis, l'ISEE, per cui proprio per questo motivo aumentare la platea degli aventi diritto. Oltre a questo, le chiedo anche quali sono, se ce la facciamo magari in pochi minuti, oltre alla social card, gli altri strumenti di sostegno al reddito per le famiglie che non ce la fanno e che devono stringere la cinghia, dottore, perché c'è stato anche il bonus famiglia del quale abbiamo parlato a lungo negli anni passati. Oltre a questo, che cosa vi vengono a chiedere le famiglie? Insomma, come si possono aiutare concretamente? Come le aiuta anche lo Stato concretamente? Ma oggi il periodo dei bonus è praticamente finito, nel senso che oggi non ci sono interventi che diano un sostegno immediato come invece fu fatto nel 2008, nel 2009, appunto, per esempio con i bonus famiglia e con la partenza della social card. La social card oggi è l'unico strumento in essere vivo, anche se limitatissimo, che fornisce un minimo di denaro a queste persone in stato di assoluto bisogno, tenendo conto che quando parliamo di povertà assoluta lo facciamo poi su dati che dà l'Istat a tutti gli effetti, perché per l'Istat oggi povertà assoluta in funzione dell'ubicazione geografica del soggetto va da un minimo di circa 6.200 euro nei piccoli comuni del sud a 9.123 nelle grandi aree metropolitane del nord, per cui siamo veramente a livelli di pura sussistenza. Non ci sono interventi ulteriori rispetto a questi, interventi che dovevano nascere, per esempio collegate alla social card, che dovevano essere poi gestiti dagli enti locali, sono anche in questo caso, in termini di provvidenze economiche, limitatissime. Solo la regione Friuli Venezia Giulia si è inserita nel progetto social card e fornisce 20 euro in più al mese per i cittadini residenti in Friuli, solo la provincia di Latina fa la stessa cosa e i comuni di Alessandria e pochi altri. Sì, qualche ente locale insomma ci aveva messo un po' del suo. Sì, ma stiamo parlando di 5-6 enti locali su 8.900 comuni, capito? Cioè, parliamo proprio di interventi limitatissimi. Come la vede lei invece tutta la questione che abbiamo affrontato prima con Valentina Melis, cioè l'accreditamento degli enti caritatevoli che avranno la facoltà, il diritto, poi il lavoro da fare di distribuzione delle carte e soprattutto da parte degli enti caritatevoli il tema dell'individuazione delle famiglie bisognose sul territorio? La vedo molto complicata, dico la verità. Probabilmente si è pensato che questi enti caritatevoli avessero la possibilità di monitorare il territorio in maniera molto più precisa che non il centro, logicamente, però bisognerà vedere appunto con quali strumenti questi enti caritatevoli, che oggi fanno tutt'altro, perché appunto intervengono sulla gestione di mense piuttosto che non sull'individuazione di bisogni specifici e dunque di valorizzazione di un soggetto rispetto a un altro, sarà abbastanza difficile. Io la vedo abbastanza complicata per questi soggetti che oggi fanno tutt'altro. Riuscire a identificare il perché a una persona sì e a una perché una persona no può essere molto difficoltoso. Io vedo oggi chi gestisce mense per i poveri, tra virgolette, gestisce praticamente i pasti per chiunque si presenti all'interno della sua struttura. Iniziare a fare differenziazioni non sarà semplice. Infatti, questa veramente sarà una guerra tra poveri. Allora, tra l'altro, siccome ancora stiamo parlando al condizionale, riferendoci alla nuova social card, quello che di certo abbiamo è la carta vecchio formato, vecchia versione, che ancora funziona, che ancora si può richiedere, quindi allora andiamo agli ascoltatori che ci chiedono chiarimenti su questo. Rapidamente, Maria da Udine, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Maria. Io sono titolare di un assegno per pensione di invalidità, però l'ISEE è zero perché la pensione non mi dà diritto all'IRPEF, niente. E incapiente. Non ho avuto possibilità di avere il bonus e nemmeno queste social card, vero? Sono singola come nucleo familiare. Dottor Conti. Allora, prima di tutto bisognerebbe capire che età ha la signora. Maria. 44. Quindi no, è esclusa proprio per questioni anagrafiche, perché ne hanno diritto le persone oltre i 65 anni. Anche questo, appunto, tema a cui potrebbe far fronte la nuova social card, no? Se non facesse la discriminazione anagrafica. Quindi Maria purtroppo deve avere un po' di pazienza e vedere se la nuova formulazione le potrà dare il diritto appunto di ottenerla. Berri da Salerno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vorrei sapere, visto che forse non ci sarà la risposta, visto che non c'è nessuna non c'è nessuna informazione sulla nuova versione della social card. Il problema è questo: avendo un figlio che ha superato il 3 anni, è stato tolto il sussidio confronto a quell'altro figlio. Sì. Nella nuova versione ci sarà una soglia più alta, cioè 5 anni per rientrare, magari rientrano tutte e tre figli miei, perché una sola io ho coperta adesso con la special card. Allora, credo che appunto, Barry, come già lei lo anticipava, non c'è ancora stato nessun dettaglio sulle questioni anagrafiche. Perché dovrà essere proprio il decreto del Ministero del Lavoro a stabilire i dettagli. Da quello che ci hanno anticipato, sarà prevista una soglia ISEE più alta di 6.235 euro, ma non ci hanno specificato di quanto più alta. E quanto all'età, possiamo dire che nel progetto di ampliamento della social card che il Ministero aveva anticipato nel 2009, che anche il Sole 24 Ore aveva anticipato, c'era l'idea di estendere da 3 a 6 anni il limite di età, proprio perché molti bambini compiendo i 3 anni, diciamo, uscivano dal programma, e questo era proprio uno dei criteri specifici che si volevano allora introdurre. Chissà che non venga ripristinato, ripescato, diciamo, come criterio quello di alzare un po' il limite di età per i bambini. E certo, tutte le criticità in qualche maniera potrebbero essere rimosse, no? Con la nuova formulazione. Nicola da Genova, rapidissimo perché stiamo andando verso la chiusura. Buongiorno. Nicola? Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Allora, avevo una domanda per il dottor Conti. Ah, sì. Io sono un straniero per tutte le tasse. Sì. Vivo qua in Italia da 10 anni, però come faccio a straniere, siamo esclusi da qua? Questo è stato Nicola, saluto subito perché questo collegamento telefonico è un po' problematico, però la sostanza l'abbiamo capita. Dottor Conti, ha sentito. La social card era destinata gira il coltello intorno italiani, ad una piega. Esatto, è riservata tuttora a cittadini italiani. Il fatto di avere residenza in Italia anche da 10 anni non dà possibilità di intervenire in questo programma. Altra criticità che forse teoricamente potrebbe essere rimossa dalla nuova versione, ma qui veramente bisognerà fare i conti un po' con tutto, perché se rimuoviamo tutte le criticità la platea si amplia a dismisura e qua poi finiscono i soldi. Un'ultima cosa, dottor Conti, con lei, no, perché voglio rispondere ad un ascoltatore che chiedono se nella lista dei beneficiari possibili della social card formulazione attuale rientrano in qualche maniera i disabili. Anche per questi c'è la discriminante anagrafica, ecco. Assolutamente sì, cioè i disabili hanno un'agevolazione che dà l'ISE, nel senso che viene abbattuto il reddito ISE per effetto del loro problema, però a tutti gli effetti c'è, comunque rimane il limite dei 3 anni e dei 65. Io credo una cosa sinceramente, che a fronte della rimozione di tante criticità, probabilmente i 50 milioni di euro che sono destinati a questa nuova social card e che sono presi, attenzione, dal fondo della vecchia social card, non sono nuovi stanziamenti, probabilmente saranno un valore assolutamente limitato. Insufficiente. Allora, noi ci ritorneremo su questo argomento. Intanto adesso abbiamo la nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. L'INPS continua a spiegarci le parole della previdenza. Il concetto di oggi è le pensioni nei prossimi anni. Dal 2012 le lavoratrici del pubblico impiego, per poter andare in pensione di vecchiaia, dovranno avere almeno 65 anni e quindi, viste le finestre mobili, riceveranno la pensione solo all'età di 66 anni. Dal 2015 i requisiti anagrafici per accedere alla pensione di vecchiaia, alla pensione di anzianità e all'assegno sociale saranno legati alla variazione della speranza di vita rispetto al triennio precedente rilevata dall'Istat. Non servirà più quindi una legge per cambiare i requisiti alla pensione, ma basterà la rilevazione periodica dell'Istituto di Statistica e un decreto del Ministro dell'Economia. La variazione potrà intervenire anche nel 2019 e poi successivamente ogni 3 anni. Se la speranza di vita dovesse diminuire, i requisiti anagrafici per la pensione comunque non diminuiranno. Filippo Aureggi mi sta imponendo di chiudere perché sono già fuori tempo massimo, ma io ringrazio molto Valentina Melis per essere stata con noi, così come Paolo Conti del CAF ACLI. Ritorneremo presto su questo argomento quando il decreto mille proroghe troverà la sua retta via e verrà approvato, sperando appunto che contenga anche la nuova social card, che dia possibilità a un numero un po' più alto di famiglie appunto di avere questo strumento di sostegno al reddito. Noi torniamo domani, buona giornata a tutti, anzi con me ci sentiamo stasera anche a Focus Economia, poveri voi, a più tardi.